Benvenuti. Siete su Samarcanda Digital Network. Quasi non mi veniva il nome perché... No, questo succede quando praticamente stai mettendo un brano che dovrebbe essere di sottofondo e invece ti piace così tanto, dici accidenti, forse era meglio che ne mettevo un altro. E vabbè, siamo qua. Io sono Edith, ben arrivati. Ci prepariamo a un ascolto molto, molto speciale. Questa volta vi porto dentro una sala da concerto dove tre musicisti prenderanno posto dietro i loro strumenti, un pianoforte, un contrabbasso e una batteria. È un trio di musicisti molto famoso e molto importante. Loro si chiamano Keith Jarrett, il pianista, Jack DeJohnette alla batteria, che è scomparso da pochissimo, Gary Peacock al contrabbasso, anche lui scomparso da qualche tempo. È rimasto solo Keith Jarrett per il momento, ma insomma non sappiamo per quanto. Ebbene, voi direte, ma tocchiamoci. No, in realtà questi tre musicisti hanno lasciato, grazie a Manfred Eicher, alla ECM, una marea di registrazioni dal vivo straordinarie. Straordinarie perché? Perché sono un modo molto particolare di ascoltare la musica dal vivo. Non è musica che si può mettere in sottofondo, quindi se state facendo altre cose non ascoltate questo programma. Invece se avete la possibilità di sedervi comodamente su un divano o sul letto o passeggiare in cuffia davanti al mare, insomma dovunque potete stare da soli molto concentrati sull'ascolto e la qualità della musica, e allora vi consiglio di ascoltare questo programma. È un concerto che si è svolto a New York. Loro spesso amavano suonare in Oriente, a Tokyo, perché il pubblico era meno rumoroso che in Europa, in Italia soprattutto, facevano meno fotografie. Loro non amavano che il pubblico si distraesse a registrare, a fare fotografie, a stare in piedi col telefonino in mano. Desideravano e volevano che la gente fosse seduta, magari con gli occhi chiusi, al totale ascolto della performance, della musica che facevano. Ed è questa la condizione per la quale io vi consiglio vivamente di mettervi prima di porvi all'ascolto di questo programma, perché è necessaria questa condizione per, non per capire la musica, per nutrirsi della musica stessa che verrà snocciolata. In fondo sono brani abbastanza conosciuti, abbastanza semplici, abbastanza standard, come si direbbe nel gergo jazzistico. Va bene, cominciamo. I tre musicisti stanno prendendo posto sul palcoscenico. Jarrett sta controllando se la temperatura del palcoscenico è giusta, se fa troppo caldo ci sono dei ventilatori, ci deve essere un silenzio veramente straordinario, una concentrazione straordinaria, niente foto, perché le foto distraggono sia con il click sia con il flash. Ebbene, siamo prontissimi, anche io sono pronto, come sentite sto alzando al massimo i volumi della mia cuffia per poter usufruire al massimo dell'ascolto di questo concerto. Il primo brano nel quale entriamo si chiama Bamsha Swing ed è un brano di Thelonious Monk. Thank you. Come avete sentito, l'atmosfera si è già scaldata e adesso un attimo per asciugarsi il sudore, riguardarsi un attimo negli occhi e riprendere con un brano che si chiama Old Folks, Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette. Ho lasciato che gli applausi scorressero fluidi e belli, perché veramente alla fine di un brano del genere è come una specie di risveglio, no? Meraviglioso. Ho trovato, mentre ascoltavo un po' il brano, un articolo di una certa Angelica Falcone, che è andata a vedere il trio all'Auditorium qualche tempo fa. Si parla del luglio 2012. E scrive una cosa molto bella che forse, se riesco a leggervela, mi darà l'idea dell'impatto emozionale di quello che significa andare a sentire un concerto di questi tre musicisti. Allora dice: sono le 18:50 di un torrido pomeriggio estivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Seduta in quarta fila nella magnifica ed elegantissima sala Santa Cecilia, ho soltanto 10 minuti per realizzare quanto accadrà a breve. Quel contrabbasso adagiato sul parquet del palco sarà sollevato da Gary Peacock. I piatti e i tamburi di quella silenziosa batteria scandiranno ritmo e tempo con Jack DeJohnette, e quel sontuoso gran coda nero Steinway & Sons prenderà vita grazie al genio che abita le mani di Keith Jarrett. A distanza di qualche anno sono tornati nella capitale tre colossi del panorama jazz contemporaneo, classe 35, 42 e 45. Sono insieme da 30 anni e hanno fatto, almeno a quell'epoca, avevano fatto circa 19 album insieme. Oggi sono molti di più. E dice: essi hanno reinventato la maniera di interpretare i cosiddetti temi standard dei songbook americano, ai quali conferiscono, come sentite, ogni volta nuova linfa. Insomma, vere e proprie leggende viventi. Il cuore va talmente veloce che non so più nemmeno in quale parte del corpo si trovi adesso. Essere un pianoforte non è mai stato tra i miei più grandi desideri, tranne oggi. Il rispettoso silenzio che pervade la sala dell'auditorium viene interrotto dalle prime note di All of You, e noi invece abbiamo ascoltato Bam Shah Swing. Poi segue Summertime, e invece noi abbiamo ascoltato Old Folks, che è quella che tengo in sottofondo in questo momento di nuovo per parlarvene. Perché Jarrett, il ricorso agli standard ha una funzione ben precisa. Rappresenta da sempre una sorta di ritorno alle origini, ad una lingua primigenia, e lo si evince dalle stesse parole del pianista. Il mio trio è un reincontro con due ragazzi con i quali siamo cresciuti insieme nello stesso villaggio. Nonostante il villaggio diventi sempre più piccolo, il significato di quella lingua non viene sminuito. Dall'altro lato, si configura come un bisogno di autoespropriazione, nel senso di non suonare sempre musica propria, ma di porsi anche al servizio di quell'altrui, sebbene il risultato sia sempre un'opera nuova. Un concerto di Jarrett, del trio di Jarrett, seppur fatto di standards, non può mai rassomigliare al precedente né al seguente, perché con lui l'old school di filone evansiano, Bill Evans, diventa ogni volta sperimentazione, vita nuova. Ciò che sbalordisce l'orecchio dell'ascoltatore è tutto ciò che si colloca prima e dopo il tema. La quasi perfezione delle introduzioni soliste, l'incessante fluire delle improvvisazioni successive. Bene, nel brano che sta per arrivare, riuscirete a sentire bene chi era Jack DeJohnette alla batteria. Il brano si chiama Wouldn't You? E stiamo ascoltando dal vivo tre meravigliosi strumentisti, musicisti: Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria. Alzate di molto i volumi delle vostre radio. Thank you. Ecco Gary Peacock con sotto Jeff DeJohnette. Grandiosi. Siamo alla Town Hall di New York, dal vivo, il 21 aprile del 1990. Si sta svolgendo questo concerto con un trio più famoso del mondo, Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette. Il brano era di Dizzy Gillespie, adesso un brano che si chiama Blame It On My Youth. Stavamo parlando del modo, no, in cui Jarrett usa, diciamo così, questo modo di usare gli standards, no? Dicevamo che ciò che sbalordisce l'orecchio dell'ascoltatore è tutto ciò che si colloca prima, sentite questa introduzione, e dopo il tema, la quasi perfezione delle introduzioni soliste, l'incessante fluire delle improvvisazioni successive. Insomma, Jarrett evoca il passato tramutandolo in presente. Il suo stile sta molto più nel come che nel cosa, nel gesto e non nella materia, nel tempo musicale, nell'ampio respiro, carico di tensione, nella gestualità ossessiva, nei continui mugoli, avete sentito, dei quali, come egli stesso dichiara, si serve per poter meglio seguire il flusso delle note. Beh, anche in questo brano, Blame It On My Youth, c'è da innamorarsi, no? Qui è un attimo, ma letteralmente, nel senso che nell'amore ci si è dentro del tutto, e quando c'è la musica di mezzo non esci, eh? Ed è amore puro, il rapporto tra Jarrett e il suo Steinway, veloce e impetuoso come quello di un adolescente, equilibrato e armonioso come il sodalizio ormai consolidato da anni con gli altri membri del trio. Tre geniali artisti in sintonia perfetta. Elegante il contrabbasso di Peacock, che crea un'intensa totale con l'improvvisazione di Jarrett, un'intesa totale, chiedo scusa, con l'improvvisazione di Jarrett che, come sentite, è incredibilmente viva, mai banale, no? E poi la ritmica di Jack. Proprio Jeff DeJohnette parla di Keith Jarrett e del suo pianoforte, dicendo: io non ho mai visto nessuno avere un tale rapporto con il proprio strumento, qualcuno che come lui conosca i propri limiti e nonostante questo riesca a superarli, a portarli al di là dei loro stessi confini, trascendendo lo strumento, che è proprio quello che io cerco di fare con la batteria. Quelle di Jarrett sono visioni estatiche. Egli non suona mai quello che ha pensato di suonare. Ve lo rimetto da capo, eh? Blame It on My Youth, trio di Keith Jarrett al vivo, Gary Peacock, Jet DeJohnette e... Edith al microfono con voi. Thank you. Emozionante, chi vi parla li ha visti dal vivo varie volte e una volta sola a New York, proprio, non credo, nello stesso posto dove stanno suonando in questo momento. Il brano era Blame It On My Youth e stavamo ascoltando le parole del batterista di Jack DeJohnette mentre parla di questo gruppo, di questa visione, di questa musica. Insomma, dice, io parlando di Keith Jarrett, lo leggevamo prima, dice, io non ho mai visto nessuno avere un tale rapporto con il proprio strumento, col pianoforte, qualcuno come lui che conosca i propri limiti e nonostante questo riesca a superarli, a portarli al di là dei loro stessi confini, dicevamo, e trascendendo lo strumento, che è proprio quello che io cerco di fare con la batteria. Quelle di Jarrett sono visioni estatiche. Egli non suona mai ciò che ha pensato di suonare. La musica in atto annulla quella impotenza, o meglio, la trasforma. Cioè, non saprei spiegare quanto poco so di ciò che avviene sul palcoscenico durante un concerto. Perciò, quando ascolto la registrazione di un mio concerto, io stesso sono tra il pubblico ad ascoltare qualcuno che fa questa cosa. L'improvvisazione. Jarrett improvvisa la musica come un flusso continuo che si sviluppa nel presente, da un silenzio iniziale a un silenzio finale. Ogni attimo di musica è un attimo di vita reale vissuta. L'orecchio ascolta, segue, ma non riuscirebbe mai a riprodurre quella sequenza musicale nata e trasposta sul piano così, immediatamente, senza seguire alcuna regola. Ho detto alla mia mano sinistra, non ho un'idea predefinita di ciò che devi fare, sto togliendo di mezzo un po' di regole, anzi un sacco di regole, perché voglio vedere di che cosa sei capace. Poi ho capito che la mia mano sinistra sapeva molte cose più di me. La musica si crea nello stesso momento in cui la si suona. Invenzione ed esecuzione coincidono. Le mani scorrono veloci, scompaiono nel lavorio dell'ebano nell'ebano i tasti del pianoforte, eppure la melodia resta. La qualità musicale e la perizia tecnica dei suoi brani non lascerebbero indifferente nemmeno un orecchio che approccia al jazz per la prima volta. È tutto lì, pronto a catturare l'attenzione e l'emozione. Magia pura. Thank you. Golden Earrings da Radio Samarcanda insieme a Edith. Stiamo ascoltando un concerto del trio Jarrett, Peacock e Dejonette. Il brano Golden Earrings è firmato da Victor Young, Jay Livingston e Ray Evans. E adesso un classico, Body and Soul, che è firmato però da Johnny Green, Edward Hyman, Robert Sauer e Frank Eaton. A volte gli autori veri non si leggono quasi mai, però è quello che faceva Duke Ellington, hanno fatto tantissimi musicisti. C'è un'introduzione. Dalle ballad al blues, dal Latin al ragtime, tutto resta comunque inconfondibilmente Keith Jarrett. Si possono chiudere gli occhi e ritrovarsi nella New York degli anni venti, magari non con questo brano, ma insomma la New York di Scott Fitzgerald, una delle feste sontuose organizzate nei saloni della villa del grande Gatsby, insieme a uomini smoking, donne in abito lungo che bevono champagne. Insomma, è il potere della musica, ti catapulta in luoghi ed epoche di cui senti la nostalgia, ma che in realtà non hai mai vissuto. Stiamo leggendo le impressioni di una scrittrice a caldo di un concerto, Angelica Falcone. Bravissima, devo dire, grazie, sto rubando le tue parole per commentare, per spiegare anche agli ascoltatori che non l'hanno mai sentito del perché stiamo ascoltando con questo stupore e questa gioia queste musiche che conosciamo e fischiettiamo e abbiamo sentito magari suonare da tanti jazzisti nella vita, ma che in realtà poi nelle mani di questo pianista e di questo trio diventano cose mai ascoltate e prendono delle strade anche spiritualmente. Chiudendo gli occhi si va, la musica ti porta veramente altrove. Questa è la lunga introduzione di Body and Soul. Dopodiché, senza un mio intervento, vi farò ascoltare l'unico brano di questo concerto che è firmato da Jarrett in persona e che è il brano che dà il titolo all'album che stiamo ascoltando. Questo concerto si chiama The Cure. Intanto godetevi questo Body and Soul. Questa è una radio speciale, si chiama Radio Samarcanda. La trovate su radiosamarcanda.it oppure sul DAB. Stiamo diventando molto bravi nel frattempo e buon ascolto. Gary Peacock, Jack Dejonette e Keith Jarrett, Body and Soul. Thank you. Il concerto sembra finito. I musicisti escono di scena. Anzi, prima ringraziano con l'asciugamano sul collo, ringraziano, si inchinano al pubblico entusiasta. Però forse c'è la possibilità che riescano di nuovo fuori. Per eseguire un bis, quanta importanza può avere la socievolezza di un artista quando il mondo che restituisce a chi gli sta di fronte è così immenso e sempre nuovo. E naturalmente Jarrett concede un bis. A volte è raro, a volte non lo fa, a volte sostiene, come disse al Campidoglio alcuni anni fa, dove era da solo, non con il trio: "Non posso suonare di più. La musica è fragile, come lo stomaco. Troppa musica, dopo, si rischia di rovinare tutto. Portatevi a casa quello che avete raccolto e godetevelo. Non fate indigestione, non rovinate tutto, non distruggete tutto." Grandi, grandi musicisti. Non è detto che incontrandoli in camerino debbano per forza essere simpatici, no? In fondo quello che ci devono dare musicalmente ce lo hanno dato. E anche questo è uno standard. Si chiama "Things ain't what they used to be". È firmato da Duke Ellington, niente poco di meno. "Things ain't what they used to be". Impeccabili. Siamo di fronte a un uomo che pare fatto apposta per polarizzare le reazioni più antitetiche, dall'adorazione all'odio. Jarrett, senza via di mezzo. E questa, bisogna ammetterlo, è una prerogativa solo dei grandi. Parafrasando la dedica che il pianista Jarrett pensò per la moglie e inserì nel libretto di "The Melody at Night with You": "For Keith Jarrett, who heard music, then gave it back to use, to us." Angelica Falcone, molto brava, grazie. Voi mi direte: adesso abbiamo imparato ad ascoltare il brano dall'inizio, non dovevi parlarci sopra, per cui adesso noi pretendiamo che tu ce lo rimetta dall'inizio. E io dico: va bene, ok, d'accordo. E allora, chiudiamo qui questa pagina dedicata all'ascolto del trio Jarrett, Peacock e The Jonette. Abbiamo ancora altri minuti per stare insieme che impiegheremo in qualche modo. Intanto io vado piano piano a riproporvi il brano di questo bis. Buon ascolto. Thank you. wanted something more. Phil Collins, al quale il nostro amore che è arrivato potente, non con la cretinata che avete sentito in sottofondo che era rimasto il microfono aperto, qualcuno manda delle scemenze ogni tanto, va bene, sul nostro WhatsApp. Phil Collins pare che voglia rifare un concerto, ma io sono felice se si è rimesso in forma in qualche modo. Sono commosso, spero che non sia una fake, spero che non sia una notizia. E questa è una canzone molto bella che ho riscoperto da poco qui e dal vivo. Hold on my heart. Heart or hurt? Mannaggia, non mi ricordo. Heart è terra, heart. Vabbè, insomma, lasciamo perdere, sentiamo le regine dello Stone Age, che cosa ci dicono? No, non queste. Guardate, siamo reduci da un concerto di Keith Jarrett, siamo... No, è che siamo concentratissimi, siamo pieni di... Siete sicuri? Ma siete proprio sicuri? Mica sono tanto sicuro che sia il sound giusto questo. I know you hear it, I hear it too. io vi chiedo scusa, no, non è proprio il brano per me questo qua, non va bene, ho scelto male, non è questo che volevo. Volevo sentire qualcosa dei Queens of the Stone Age, ma non quello di prima, non c'entra niente. E invece questo? No, tu stai fuori di testa? Allora guarda, io lo so che c'è qualcuno che ama questo, ma veniamo da un concerto di Jarrett, non possiamo sentire questa musica. Cioè non puoi accoppiare della musica che non c'entra, cioè o fai un programma tutto di... Sono in imbarazzo veramente, io vi chiedo scusa, fatemi annientare il computer. Oh. Come diceva Alex Righi, si può ascoltare molta musica di questo Alain Toussaint. Per esempio, Blue Drag. Ecco, già va meglio, molto meglio. Scusate, ma queste cose le puoi fare non in diretta, cancelli, ma se sei in diretta può succedere l'errore. Non è che siamo delle macchine. Cioè, io avrei concluso con il concerto di Jarrett, ma siccome ci sono ancora dei minuti di musica per stare insieme, è che ero molto concentrato, ero molto imbambolato, non sapevo più che cosa mettere, lo confesso. Thank you. Alan Toussaint. Qualche tempo fa un gruppo inglese che è venuto anche in Italia a suonare, qualcuno è anche rimasto a Roma ad abitare, gli Smiths, fecero un disco che si chiamava The Queen is Dead, ma non era ancora successo all'epoca, e invece adesso è successo e quindi adesso potremo sentirlo col senno di poi. The Queen is Dead. So I broke it. The Smith. A Samarcanda Digital Network. Edith, al microfono con voi. Dopo Jarrett, siamo piombati in un album di qualche anno fa. The Queen is Dead. Di un gruppo con un nome comune, molto comune. Un cognome abbastanza facile da trovare in giro. Appunto loro sono gli Smiths. Bello, e vorrei concludere con un rock and roll, ma c'è qualcuno qui che sa fare un rock and roll vero? Cioè una cosa come si deve? Niente poco di meno che Ronnie Hawkins. Hawkins, Bo Diddley. E io vorrei finire con un gruppo che mi piace molto. Metto questa e poi me ne vado, Ma va bene questa come finale, Clima giusto, Style Council, Paul Weller. Promised Land. Edith vi lascia li lascia, spero, in buone mani, naturalmente. In ogni caso siete sul Samarcanda Digital Network, o meglio su Radio Samarcanda. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo!